Miti e verità dello sport di Dario Ricci. Milano, una corona dei volontari della libertà, insieme con la loro bandiera, apre il corteo delle famiglie. Nell'anniversario della liberazione si posa al Musocco la prima pietra per il mausoleo dei partigiani caduti. I morti ci dicono: difendete la pace. Congiunti, compagni di formazione e tutti gli italiani memori onorano la sepoltura di chi non vide la libertà per cui diede la vita. Olimpia, Milano, Roma. La storia, lo sport, il mito, la verità si mescolano e si intrecciano oggi nel nostro appuntamento, perché le divinità ancestrali ci chiedono di raccontare un pezzo della storia d'Italia, il 25 aprile, la liberazione dal nazifascismo, data anch'essa legata a molti personaggi e vicende della nostra cultura sportiva. E allora oggi vogliamo celebrarla a modo nostro, la liberazione, raccontandovi due storie di sport che affondano le proprie radici proprio in quel 25 aprile del 1945. Cominciamo da Milano. Cittadini, lavoratori, sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista, per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine. Come a Genova e a Torino ponete i tedeschi di fronte al dilemma arrendersi o perire. Il comandante partigiano Sandro Pertini, che già aveva combattuto nella resistenza romana a Porta San Paolo e che sarà poi presidente della Repubblica, arringa così via radio la popolazione milanese. È il 25 aprile del 1945. Le truppe nazifasciste in rotta fuggono, mentre i partigiani cominciano a prendere il controllo dei punti chiave della città. In quelle ore, in quei giorni terribili e straordinari, le vite di uomini e donne si mescolano con la grande storia, che chiama ognuno a svolgere il proprio ruolo secondo la propria responsabilità. Tocca ad esempio a un semplice ingegnere in radiotrasmissioni, Pino Gagliani, annunciare ai milanesi la liberazione dai microfoni dell'EIAR, l'ente da cui poi nascerà la RAI. La sede dell'EIAR non era in corso Sempione ma a Morivione, nel Vicentino, in una ex scuola elementare ristrutturata proprio erano bellissimi studi di radiodiffusione. E il 26 aprile io sono andato da dove abitavo verso la parte del Forlanini in bicicletta fino alla sede EIA. Lì erano scomparsi tutti, anzi i giornalisti erano scomparsi il giorno prima, il 25 aprile, lasciando giacche e penne stilografiche sulla scrivania. Il 26 aprile io mi sono trovato solo e avendo la responsabilità di mantenere la radiodiffusione, e nessun giornalista nuovo, quel del nuovo corso, si era presentato molto prudentemente. Soltanto per via di per telefono abbiamo avuto il testo dei comunicati dell'armata anglo-americana e del CLN, testo che andavano letti. E che io per tutta un'intera giornata, alternandomi con un mio tecnico, con un mio operatore, abbiamo letto. Tra una lettura e l'altra abbiamo riempito il programma, mandato in onda musica classica. Coraggio non da poco quello di Gagliani in quelle ore di incertezza. Noi abbiamo fatto in una sede radio, l'unica sede che mandava, che garantiva un'emissione radio praticamente su tutto il nord Italia. Un'intera giornata, ma che sia venuto un solo partigiano a liberarci non si è visto. E lì potevano essere anche delle, in quei momenti lì, reazioni da parte di destra o di sinistra, da parte anche dei tedeschi che scappavano, del rimasuglio dei fascisti. Sempre via radio la notizia della liberazione arriva in un altro punto della città alle orecchie di un bambino, Sandro Gamba. Intanto ho cominciato al mattino alle 8 che la radio, la famosa EIAR, ha annunciato che ormai i partigiani erano entrati o stavano entrando in Milano, perciò non andare a scuola, non andate a lavorare, lasciate le strade libere. Naturalmente le strade erano sempre libere perché non c'era traffico, e noi bambini siamo usciti, noi bambini avevamo 10, 11, 12 anni, io non avevo compiuto ancora i 13 anni per la verità, siamo andati sulla via Washington dove io vivevo, al numero 25, a giocare al calcio. La strada è larga, tuttora si può vedere, e abbiamo cominciato a giocare. A un certo punto, questa era verso la una e mezza del pomeriggio, da una parte arrivano delle camionette su dei disperati che poi abbiamo capito che erano dei partigiani, dall'altra passavano velocissime delle macchine che erano fascisti e nazisti che stavano scappando. Allora hanno trovato la buona idea di spararsi tra di loro e noi eravamo in mezzo a questa sparatoria molto fitta, ci buttavamo per terra, scappavamo, eravamo bambini, non avevamo bene la cognizione di quello che poteva succedere. Pochi istanti e Sandro viene raggiunto da alcuni proiettili. Una raffica di mitra mi ha spappolato la mano destra e un proiettile anche, mi ricordo, mi bucò i calzoni. Poi ho visto sangue che colava. Allora sono entrato in una portineria, gli ho detto un po' d'acqua qua, poi sono caduto per terra perché il sangue era molto e non avevo più forze. La situazione appare subito disperata, i medici vogliono amputare, la famiglia del bambino si oppone però. La mia famiglia dice no, non amputiamo, come resta la mano cerchiamo di salvarla, facciamo di tutto per salvarla. Sono passate un po' di settimane e le ferite naturalmente sono guarite, però tutte le ossa erano malmesse, erano state frantumate. E il problema era di rieducare questa mano. Da quel momento in poi la migliore amica di Sandro diventerà una vecchia pallina da tennis. Che era tutta consumata, perché allora le palline da tennis le usavamo per giocare al calcio in strada, era tutta spelata e me la sono tenuta in tasca per 2 o 3 anni, forse anche di più, a scuola in ogni momento, e cercavo di strizzarla, di farla per riacquisire un po' di manualità. Intanto però quel bambino milanese aveva potuto far conoscenza con quei soldati americani che in città avevano portato la libertà e con essa anche la passione per i loro sport preferiti. Noi eravamo molto per gli americani, perché si parlava sempre e gli americani, e gli aerei degli americani, e le auto degli americani, e le navi degli americani. Beh, quando sono arrivati siamo rimasti tutti molto impressionati da come erano, intanto da come erano vestiti, le divise. Tutti in ordine, tutti così per bene, che distribuivano le sigarette, buttavano dai carri armati, dalle camionette, dalle jeep. Vedevamo queste jeep che andavano da tutte le parti, che confronto alle macchine del nostro esercito sembravano degli apparecchi spaziali, e ci tiravano cose da mangiare, le scatolette di salmone, mi ricordo, le scatolette di carne. E poi si fermavano con noi ragazzi, così magari scendevano, si mettevano i guantoni da baseball, cominciavano a lanciarsi la palla e i bambini si divertivano per attirarsi le simpatie della gente, perché la gente magari poteva pensare questi qua ci hanno tirato giù tonnellate di bombe per 5 anni e adesso vengono qua. Invece hanno avuto questo approccio molto, molto amicale. Loro mi avevano preso in simpatia, mi tiravano dentro, mi regalavano le famose cicche americane che tenevamo in bocca una settimana perché doveva durare. Passano i giorni, i mesi, e sempre grazie a quei soldati arrivati da oltreoceano, Gamba comincia a prendere confidenza con un'altra palla, decisamente più grande di una pallina da tennis, che subito incuriosisce il ragazzino. Sempre in quell'epoca lì, nell'estate del 45, poi verso l'agosto, in via Washington c'è tuttora un campo sportivo che veniva frequentato dai soldati americani. Mi hanno detto, prova a giocare a basket, così prendi il pallone in mano. Naturalmente io prendevo il pallone in mano con una mano sola, perché con l'altra non avevo sensibilità, non avevo forza. Però ho cominciato a prenderlo in mano, mi facevano dei passaggi, giocavo con la mano sinistra, così giocavo, per modo di dire, picchiavo la palla per terra, la palleggiavo e poi la spingevo su dove c'era il canestro. E questo è stato un po' l'avvio della mia carriera. Una carriera, vale la pena ricordarlo, che farà di Sandro Gamba una leggenda del nostro basket, bandiera dell'Olimpia Milano, capitano della nazionale, 10 scudetti vinti e poi da allenatore degli azzurri un oro europeo e un argento olimpico. Ma ancora oggi il grande ex giocatore e allenatore ricorda quelle ore drammatiche di quel 25 aprile che cambiò il destino suo e del nostro paese. Ricordo sempre vivo, perché è impossibile dimenticare queste cose. Magari non mi ricordo dove sono andato ieri, però Quel giorno me lo ricordo in ogni particolare, tant'è che quando io sono uscito da, quando sono guarito dopo un paio di mesi, insomma, che potevo andare indipendente, sono andato a trovare, a cercare per ringraziare quel signore che mi ha dato il primo aiuto, e mi dissero che si era suicidato perché era un grande capo dei fascisti. Beh, è davvero emozionante rivivere il 25 aprile di Sandro Gamba, raccontato anche nel libro di Flavio Suardi, Il Signore del Basket, edito da Roberto Meiattini, editore. Ora una breve pausa, poi ci sposteremo a Roma per parlare ancora di sport e 25 aprile. Olimpia, miti e verità dello sport. Scena leggendaria quella che abbiamo rivissuto di Roma città aperta, il capolavoro di Roberto Rossellini, con la straordinaria Anna Magnani, film simbolo della resistenza e dell'antifascismo, oltre che nel neorealismo italiano. È dall'aprile del 1946 che a Roma, in quelle stesse strade che videro protagonista la lotta partigiana, a Porta San Paolo, intorno alla piramide Cestia, va in scena una gara ciclistica davvero particolare, giunta quest'anno alla 70esima edizione. Il Gran Premio della Liberazione, forse la più importante gara ciclistica al mondo per corridori dilettanti. Una corsa che inevitabilmente sovrappone il proprio valore sportivo e il proprio significato politico. Ne parliamo oggi con un campione dello sport italiano che ha nel suo palmarès anche una prestigiosa vittoria da dilettante proprio al Gran Premio della Liberazione. Gianni Bugno, classe 64, due campionati del mondo e un Giro d'Italia vinti in carriera, oltre altre infinite corse. Benvenuto oggi a Olimpia, la città dello sport. Buongiorno a voi. Allora Gianni, cosa vuol dire liberazione nella carriera di un ciclista? Sicuramente è una corsa molto importante, è una corsa a livello internazionale, sicuramente anche a livello internazionale è molto importante perché partecipano molti stranieri, perché è quasi un campionato del mondo di primavera. Storicamente poi il Liberazione è sempre stato la vetrina per i campioni stranieri, soprattutto Gianni quelli dell'est europeo che almeno fino alla caduta del muro di Berlino dell'89 magari avevano ben poche occasioni di farsi notare oltre cortina, giusto? Per quanto mi riguarda, quando correvo io sì, adesso lo è ancora tuttora, quindi è una corsa molto importante che si corre sulle strade di Roma, quindi meglio di così, palcoscenico migliore di questo non c'era. Sovietici poi spesso protagonisti in prima fila proprio tra le strade di Roma, no, vero Gianni? Sì, sicuramente era un terreno per sovietici, Germania dell'Est e anche americani, quindi era una bellissima gara dove mettevi in mostra praticamente tutte le corazzate straniere, diciamo. E allora Gianni Bugno, proviamo a ripercorrerla insieme, la storia del Gran Premio della Liberazione. San Paolo, il 10 settembre, comincia la resistenza italiana. Borghesi, studenti, soldati isolati cercano d'opporsi per molte ore, con poche armi, ai tedeschi che avanzano verso la città, da Viale Aventino e dal Circo Massimo. È il 10 settembre del 1943, Porta San Paolo, come abbiamo sentito, diventa subito fulcro della resistenza romana al nazifascismo. Passerà quasi un anno prima che le truppe americane sbarcate ad Anzio, sul litorale a sud della città, liberino la capitale, come raccontato dai testimoni dell'epoca. June 4th, 1944. Rome was free. Liberated after 21 years of fascist rule. Sapevamo che stavamo arrivando e io, mio padre e il signor Righiati stavamo a giocare a pallone davanti alle mura aureliane. Giocavamo a pallone e stavamo con l'orecchio attizzato per sentire quando arrivavano. Qualcuno che stava piazzato a stessa incomincia a gridare: gli americani arrivano! Allora, tutti quanti di corsa, sceso dai palazzi, tutti quanti di corsa, dove stanno arrivando. Acclaimed by cheering multitudes. The streets where the chariots of the Caesars once rolled, tanks and trucks rumbled past historic landmarks. Colosseum, the Forum, the Victor Emmanuel Memorial, tomb of Italy's unknown soldier. La voglia di sport si mescola alla gioia per la libertà ritrovata. È il 25 aprile del 1946, ad appena un anno da quei giorni drammatici, quando decine di ciclisti inforcano le loro bici e danno vita alla prima edizione del Gran Premio della Liberazione, che prende il via dalle terme di Caracalla. Una corsa che diventa subito tradizione, che attraverserà, non senza turbamenti, anche gli anni 60 e 70, i cosiddetti anni di piombo, come ricorda Eugenio Bomboni, ex giornalista dell'Unità e decano degli organizzatori della Liberazione. Veramente erano vive le fiamme, perché quando in quegli anni andavamo su al Campidoglio e poi giravamo dietro dal palazzo comunale per riscendere giù verso la strada che dovevamo fare per tornare al punto di partenza e continuare i giri, e avevamo messo delle palle di paglia sul muro di cinta per evitare che qualcuno cadendo si potesse fare troppo male, e nella notte ci toccò mettere un servizio di vigilanza perché i fascisti diedero fuoco alle balle di paglia. Ma è vero che, visto che la corsa era organizzata dall'Unità, i corridori sovietici dell'est europeo, spesso vincitori, venivano in qualche modo favoriti dagli organizzatori? Eugenio fuga tutti i sospetti con una battuta. Queste erano, come si potrebbe dire, le barzellette da bar, no? Come fai a favorire un atleta o un gruppo di atleti anziché altri? Questa era, diciamo, una situazione maligna in cui chi aveva voglia di pescare nel torbido trovò facile gioco. Dice, ah, questi sono comunisti, fanno correre i comunisti, ma quale correre i comunisti? Oltretutto c'era poco bisogno di aiutarli perché andavano come treni, vincevano tutto, quindi non era proprio il caso di preoccuparsi. Regola confermata scorrendo il palmarès di vincitori e podi. Quando non vincevano, gli atleti dell'est erano comunque sempre tra i primissimi. Basti pensare al russo Dmitry Konishev, ricorda Eugenio, bronzo mondiale nel 1992 tra i professionisti, battuto proprio da Bugno al bis mondiale. Konishev fu uno di questi. Poi furono tanti gli atleti che parteciparono e magari non arrivarono a vincerlo, sono nell'ordine d'arrivo, ma fra i primi cinque, ma insomma, no, vincerlo era, non era facile, e ha sempre radunato l'elite del mondo non professionistico, quindi insomma, è sempre stata una cosa dura. E poi aveva una caratteristica, cioè prima era in linea, no? Andavamo nei castelli, poi quando l'abbiamo messo in circuito qui a Caracalla, allora è diventato una, come si potrebbe dire, una lotteria, perché la ripetizione costante di un circuito crea dei problemi da un punto di vista della tattica agonistica, e questo si riscontrava sempre, insomma, c'erano delle fughe in continuazione ma non riuscivano ad andare a termine perché a un certo momento sul circuito trovavano tutti il punto di riferimento per reagire, come per esempio Viale Giotto che era in salita, come per esempio la salitella che costeggia la via Colombo per ritornare su a via Baccelli, insomma era un percorso che aveva caratteristiche positive. Lungo le vie della Liberazione, come abbiamo detto, sport, storia e politica si intrecciano come accade del resto nella vita di tutti i giorni. A ricordarlo emblematicamente il gesto che ogni anno compie il vincitore della Liberazione, come sottolinea ancora Bomboni. Il vincitore del Gran Premio della Liberazione va sempre a portare una corona alla lapide che ricorda la Resistenza, lì al muro a sinistra della Porta San Paolo. Rispetto a chi esce dalla città c'è una lapide che ricorda la Resistenza, e lì la corsa tutti gli anni porta una corona a quella lapide. Ancora oggi, quelle biciclette che sfrecciano intorno a Porta San Paolo ci ricordano un pezzo di storia dello sport, un pezzo di storia del nostro paese, della nostra vita. La corsa è diventata tanto importante che è principalmente una corsa, cioè, capito, nel punto di vista delle attenzioni intorno all'evento. Ci sono attenzioni sportive vere, no? Di gente che viene lì perché c'è una corsa che interessa molto dal punto di vista anche agonistico, oltre che storico. Ma ha saputo unire le due cose. È un grande evento dello sport, è un evento importante per celebrare la vittoria della Resistenza. Gianni Bugno, abbiamo ripercorso insieme la storia del Gran Premio della Liberazione di Roma. Se ben ricordo, Gianni, c'è un aneddoto particolare legato alla tua vittoria in quella corsa. Praticamente corresti senza squadra, da indipendente, giusto? Sì, ero venuto giù in aereo perché dovevo andare via con la nazionale al Giro delle Regioni, sono venuto giù da solo, senza squadra, senza niente, e poi sono riuscito a vincere. Dovevo partecipare al Giro delle Regioni, quindi sono andato giù un giorno prima, visto che già dovevo andare al Giro delle Regioni. Ho partecipato alla Liberazione da indipendente, diciamo, sì, quello è vero. Qual è il valore sportivo e storico di questa corsa ancora oggi, Gianni? È rimasto sempre un grande palcoscenico per tutti i corridori dilettanti che si vogliono mettere in evidenza. Come ho già detto all'inizio della trasmissione, è un campionato del mondo di primavera, quindi lo era allora, lo è tutt'oggi. Gianni Bugno, grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie a voi, buona giornata. Anche per l'appuntamento odierno con Olimpia è tutto, un grazie a Paolo Corleoni in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci attraverso il podcast sulla nostra pagina web, sul nostro sito radio24.it. Potete scriverci alla mail olimpia@radio24.it. Ora spazio a tutti i convocati weekend, ancora una buona giornata da Dario Ricci.